Capitolo 42. Scoppia la tempesta. L'autunno scivolò via, attraversando tutte le sue stagioni. Il raccolto del frumento d'oro, le passeggiate tra i campi di stoppia e i vagabondaggi nei boschetti di avellani alla ricerca di nocciole. I meleti spogliati dei loro frutti scarlatti, tra le grida e i richiami gioiosi dei bambini. E con l'accorciarsi dei giorni era ora giunto il colore glorioso, come di tulipani dell'ultima fase. La terra era pervasa da un relativo silenzio, interrotto solo dagli spari distanti e dal fruscio delle pernici che si levavano dalla campagna. Dal giorno della disgraziata conversazione con Miss Browning, a casa Gibson era rimasto un certo turbamento. Cinzia sembrava mantenere tutti a distanza, mentalmente parlando, e in particolare evitava qualsiasi chiacchierata in privato con Molly. Mrs. Gibson, che ancora covava rancore per Miss Browning per la sua implicita accusa di non badare a sufficienza alla figliastra, decise di esercitare sulla povera ragazza un controllo estremamente fastidioso. «Dove sei stata, figliola?» chiedeva. «Chi hai incontrato? Da chi proveniva quella lettera? Perché sei stata fuori così a lungo, dato che dovevi andare solo...» E così via, proprio come se Molly fosse stata veramente pescata a intrattenere una qualche relazione segreta. Ella rispondeva a ognuna di queste domande con la semplice autenticità della perfetta innocenza. Ma tali interrogativi, per quanto ne intuisse la ragione e sapesse che non erano motivati da un particolare sospetto nei confronti del suo comportamento, ma erano condotti solo affinché Mrs. Gibson potesse sostenere di occuparsi con ogni cura di lei, la innervosivano indescrivibilmente. Molto spesso non usciva proprio. Piuttosto che dover fornire un programma di dove intendeva recarsi, quando magari di programmi non aveva fatto, e pensava solo di gironzolare un po' come le pareva e di trarre piacere dal luminoso e solenne languire dell'anno. Era un periodo molto pesante per Molly, l'entusiasmo e la vita erano svaniti e avevano lasciato delle passate delizie meri gusci di apparenza. Ella pensava che fosse la sua gioventù a essersi dileguata a 19 anni. Cinzia, in qualche modo, non era più la stessa e forse il suo cambiamento l'avrebbe danneggiata nell'opinione di Roger lontano. La matrigna appariva quasi gentile in confronto alla chiusura del cuore di Cinzia. Mrs. Gibson, certo, la angosciava con tutte le sue forme di controllo, ma almeno sotto ogni altro aspetto le era rimasta la stessa. Eppure anche Cinzia sembrava ansiosa e preoccupata, sebbene non volesse parlare con Molly delle proprie apprensioni. E allora la povera ragazza, nella sua bontà, si rimproverava per aver sofferto del cambiamento nei modi di Cinzia e ripeteva a se stessa: «Se per me è difficile evitare di agitarmi continuamente per via di Roger e domandarmi dove sia e come stia, come deve essere per lei?» Un giorno Mr. Gibson entrò rapido e vivace. «Molly?» chiese. «Dov'è Cinzia?» «È uscita per delle commissioni!» «Beh, peccato, ma non importa. Mettiti cappello e mantella più in fretta che puoi. Ho dovuto farmi prestare il calessino del vecchio Simpson. Ci sarebbe stato abbastanza spazio sia per te che per Cinzia, ma visto che le cose stanno così, dovrei tornare a casa a piedi da sola. Io ti accompagnerò fino a Barford Road e poi tu dovrai saltar giù. Non posso portarti fino a Broadhurst. Potrei dovermi trattenere lì per ore». Mrs. Gibson non era nella sua stanza e per quanto interessava a Molly, poteva essere anche fuori casa. Ora che lei aveva il permesso e la volontà di suo padre. Cappellino e mantella furono a posto in 2 minuti e lei era già seduta al fianco del padre con il sedile posteriore chiuso e il lieve carico che sfrecciava allegramente, rimbalzando sui viottoli pavimentati di pietre. «Oh, è incantevole!» disse Molly dopo uno scossone dovuto a una tremenda gobba della strada. «Per i giovani, non certo per l'età dell'artrite», commentò Mr. Gibson. «Le mie ossa stanno iniziando a soffrire di reumatismi e preferirebbero filare lisce su una pavimentazione a macadam». «Questo è un tradimento per una vista così bella e per questa buon'aria pura, papà. Solo che non ti credo». «Grazie, e visto che sei così generosa di complimenti, penso che ti mollerò ai piedi di questa collina. Abbiamo superato la seconda pietra miliare di Hollingford». «Oh, lasciami raggiungere la cima. So che da lì si possono vedere i profili azzurri delle Malvern e Dorimer Hall in mezzo ai boschi. Il cavallo avrà bisogno di un minuto di riposo, dopodiché io scenderò senza dire una parola». Così salirono la collina e lì sedettero insieme per un minuto o due, godendosi il panorama senza dirsi molto. I boschi erano d'oro, l'antica casa di mattoni rossicci, purpurei, con i suoi comignoli ritorti, si elevava fra gli alberi, affacciandosi sui prati verdi e su un placido lago. E ancora oltre, ecco, le Malvern Hills. Adesso salta giù, ragazzina, e affrettati verso casa prima che faccia buio. Vedrai che la scorciatoia per la brughiera di Croston è più breve della strada che abbiamo appena fatto. Per arrivare a Croston Heath, Molly dovette scendere un sentiero stretto, ombreggiato dagli alberi, con vecchi cottage dall'aria pittoresca che punteggiavano qui e là i ripidi margini arenosi. Poi raggiunse un boschetto, poi dovette attraversare un ruscello oltrepassando un ponte di tavole, e sui campi più erti, dalla parte opposta, lungo la via erbosa, erano stati ricavati dei gradini, alla fine dei quali la ragazza si ritrovò sulla brughiera. Un terreno di ampia estensione, circondato dalle case dei lavoranti, presso le quali passava la strada diretta a Hollingford. La porzione di tragitto più solitaria era la prima: il sentiero, il bosco, il ponticello e la salita ai campi sulle alture. Ma Molly non si curava della solitudine. Percorse il viottolo sotto i rami curvi degli olmi, da cui qui e là una foglia gialla scendeva, fluttuando per posarsi sui suoi vestiti. Superò poi l'ultimo cottage, da cui una bambina era rotolata giù per il declivio, e stava rendendo pubblico il suo incidente con urli di spavento. Molly si chinò per prenderla in braccio, in un modo tale che nel cuore della piccola un'intensa sorpresa prese il posto della paura e la riportò su per l'erta erbosa verso il cottage che credeva fosse casa sua. La madre uscì di corsa dal giardino sul retro della casa, tenendo ancora le tarde prugne selvatiche che aveva raccolto nel grembiule. Ma vedendola, la creatura tese le braccine verso di lei, che lasciò cadere in giro tutta la frutta per prendere la bambina, e iniziò a consolarla mentre la piccola ricominciava a piangere, intervallando i tentativi di calmarla con ringraziamenti all'indirizzo di Molly. La chiamò per nome, e quando Molly le chiese come mai lo conoscesse, la donna rispose di aver lavorato come domestica per Mrs. Goodenough prima di sposarsi. Così era naturale per lei conoscere di vista la figlia del dottor Gibson. Dopo che si furono scambiate altre due o tre parole, Molly corse giù per il sentiero e continuò il suo cammino, fermandosi di tanto in tanto per raccogliere un mazzetto delle foglie che la colpivano per i loro colori brillanti. Entrò nel bosco. Prendendo una svolta sul camminamento solitario, udì una voce agitata, angosciata, e in un attimo riconobbe i toni di Cinzia. Si fermò immobile e si guardò intorno. Alcuni cespugli di agrifoglio spiccavano splendenti per le loro foglie verde scuro fra il fogliame ambrato e scarlatto. Se c'era qualcuno, doveva trovarsi dietro quegli spessi arbusti. Così Molly lasciò il sentiero e proseguì dritta, penetrando il bruno intrico del sottobosco delle felci, e spostò i cespugli di agrifoglio. C'erano Mr. Preston e Cinzia. Lui le stringeva forte le mani e sembrava che entrambi fossero stati ridotti al silenzio nel mezzo di una conversazione irruenta dal fruscio dei passi di Molly. Per un istante nessuno parlò. Poi Cinzia disse: «Oh, Molly, Molly, vieni e giudica tu!» Mr. Preston lasciò andare lentamente le mani di Cinzia con un'espressione che era più una smorfia che un sorriso. Eppure anche lui era stato fortemente agitato, qualunque fosse l'argomento di discussione. Molly avanzò e prese il braccio di Cinzia, con gli occhi fissi sul viso di Mr. Preston. Era bello vedere l'impavidità della sua perfetta innocenza. Egli non seppe reggere il suo sguardo e disse a Cinzia: «L'argomento della nostra conversazione non è adatto alla presenza di una terza persona. Visto che Miss Gibson desidera la vostra compagnia adesso, devo pregarvi di decidere un'altra data e un altro luogo dove possiamo terminare il nostro discorso.» «Me ne vado, se Cinzia vuole», precisò Molly. «No, no, resta. Voglio che tu rimanga. Voglio che tu senta tutto. Vorrei avertene parlato prima. Intendete dire che rimpiangete che lei non sia stata informata del nostro fidanzamento? Del fatto che tanto tempo fa avete promesso di diventare mia moglie? Vi prego di ricordare che siete stata voi a farmi giurare segretezza, non io.» «Non gli credo, Cinzia.» «No, non piangere se puoi. Io non gli credo.» «Cinzia», riprese il giovane, cambiando bruscamente il tono infervida tenerezza, «vi prego, non fate così. Non sapete quanto mi fate soffrire.» Fece un passo in avanti per tentare di prenderle la mano e consolarla, ma lei si ritrasse e prese a singhiozzare irrefrenabilmente. Avvertiva la presenza di Molly come una protezione, cosicché ora osò lasciarsi andare e si concesse di essere debole, sfogando le proprie emozioni. Andatevene, disse Molly. Non vedete che la fate star peggio? Ma lui non si mosse. Guardava Cinzia così intensamente che quasi non sembrò sentire. Andate via, ripete Molly con veemenza. Se davvero soffrite a vederla piangere. Non capite che la causa siete voi? Me ne vado se è Cinzia a dirmelo, fece lui alla fine. Oh, Molly, non so che fare, ammise Cinzia, togliendo le mani dal viso macchiato di lacrime e rivolgendosi a Molly, singhiozzando più forte che mai. In effetti stava avendo un attacco isterico e, benché tentasse di parlare coerentemente, non riusciva a pronunciare parole intelligibili. Correte a quel cottage fra gli alberi e portatele dell'acqua, disse Molly. Egli esitò un poco. Perché non andate? Chiese Molly con impazienza. Non ho finito di parlare con lei. Non ve ne andrete prima che io sia tornato? No, non vedete che non può muoversi in questo stato? Egli partì in fretta, per quanto riluttante. Ci volle un po' di tempo prima che Cinzia riuscisse a controllare i singhiozzi abbastanza da poter parlare. Infine disse: Molly, io lo odio. Ma cosa intendeva quando ha detto che sei fidanzata con lui? Non piangere, cara, ma dimmi. Se posso aiutarti lo farò, ma non riesco a immaginare di cosa si tratti. È una storia troppo lunga da raccontare adesso, io non sono abbastanza in forze. Guarda, sta tornando. Non appena ce la faccio, torniamo a casa. Con tutto il cuore, disse Molly. Il giovane portò l'acqua, Cinzia beve e tornò calma. Ora, disse Molly. Faremo meglio a rincasare più in fretta che puoi. Presto sarà buio. Se credeva di portar via Cinzia così facilmente si sbagliava. Mister Preston era risoluto su questo punto. Disse: Penso che, già che Miss Gibson è venuta a sapere questo, sarebbe meglio che conoscesse l'intera verità, che voi vi siete impegnata a sposarmi non appena compirete 20 anni. Altrimenti il vostro essere qui con me per giunta a suo appuntamento potrebbe sembrarle strano, persino equivoco. Poiché io so che Cinzia è fidanzata con un altro uomo, non potete certo aspettarvi che creda ciò che dite, Mister Preston. Oh, Molly, intervenne Cinzia, tremando da capo a piedi, ma tentando di stare calma. Io non sono fidanzata né con la persona a cui pensi tu, né con Mister Preston. Mister Preston fece un sorriso tirato. Penso di essere in possesso di alcune lettere che convincerebbero Miss Gibson della verità di quanto ho detto e che convinceranno Mr. Osborne Hamley, se necessario. Deduco che stiate alludendo a lui. Voi due mi confondete, osservò Molly. La sola cosa che so è che non dovremo starcene qui a quest'ora della sera e che io e Cinzia dobbiamo tornare a casa immediatamente. Se desiderate parlare con Miss Kirkpatrick, Mr. Preston, perché non vi presentate a casa di mio padre e chiedete apertamente di poterla vedere come un gentiluomo? Molto volentieri, rispose lui. Sarei fin troppo contento di spiegare a Mr. Gibson la natura del mio rapporto con lei. Se non l'ho fatto prima, è perché ho consentito alle sue richieste. No, no, vi prego. Molly, tu non sai tutto. Non sai niente a riguardo. Hai buone intenzioni, sei gentile, lo so, ma stai solo peggiorando le cose. Adesso sto bene, possiamo incamminarci. Ti racconterò tutto una volta a casa. Prese il braccio di Molly e tentò di trascinarla via di fretta, ma Mr. Preston le seguì parlando mentre procedeva al loro fianco. Non so cosa direte a casa, ma potete negare di esservi promessa a me? Potete negare che è stato solo per vostra serissima richiesta che ho tenuto il fidanzamento segreto così a lungo? Non fu saggio da parte sua. Cinzia si arrestò e gli si rivoltò contro. Se proprio volete che lo dica, se proprio devo parlare qui, riconosco che ciò che dite è vero, letteralmente, che quando ero una ragazzina abbandonata di 16 anni, voi, che io credevo un amico, mi avete prestato del denaro per le mie necessità e mi avete costretta a promettere che vi avrei sposato. Costretta, ribadì lui, enfatizzando la parola. Cinzia si fece tutta rossa. Costretta non è il termine corretto, lo ammetto. Allora mi piacevate e Eravate quasi il mio unico amico. E se si fosse trattato di un matrimonio immediato, forse non mi sarei mai opposta. Ma ora vi conosco meglio e di recente voi mi avete perseguitata in un modo tale che vi dico una volta per tutte, come vi ho già spiegato in precedenza, tanto che le parole mi danno persino la nausea, che niente mi indurrà mai a sposarvi, niente. Vedo che non esiste la possibilità di sfuggire allo scandalo e direi di evitare di perdere la reputazione, nonché lo so bene, tutti quei pochi amici che ho. Non me? Mai, disse Molly, commossa dal tono disperato e lacrimoso in cui Cinzia stava scivolando. È difficile, replicò Mr. Preston. Potete pensare di me tutte le cose cattive che volete, Cinzia, ma non credo possiate dubitare del mio amore per voi, autentico, passionale, disinteressato. Sì, ne dubito, ribatté la ragazza con rinnovata energia. Ah, quando penso all'affetto totalmente devoto di cui sono stata testimone, che ho conosciuto, un affetto che pensava agli altri prima che a se stesso. Mr. Preston interloquì approfittando della sua pausa. Lei temeva di rivelargli troppo. E non definite amore un sentimento disposto ad aspettarvi per anni, a tacere quando si richiedeva il silenzio, a soffrire di gelosia e a sopportare di essere trascurato, affidandosi unicamente alla promessa solenne di una ragazza di 16 anni. E quando ella è cresciuta, quella solennità è diventata inconsistente. Cinzia, io vi ho amata, vi amo e non rinuncerò a voi. Se solo voleste mantenere la vostra parola e sposarmi, vi giuro che farò in modo che ricambiate il mio amore. Oh, vorrei non aver mai preso a prestito quel disgraziato denaro. È stato l'inizio di tutto. Oh, Molly, ho risparmiato e lesinato per ripagare il mio debito e adesso lui non vuole i miei soldi. Ho pensato che se solo fossi riuscita a saldarlo sarei stata libera. Sembra vogliate dire che vi siete venduta per 20 sterline, osservò il giovane. Ormai erano quasi nei campi, vicini alla protezione dei cottage e a portata d'orecchio dei loro abitanti. Se nessuno di loro due ci pensò, Molly sì, e le venne in mente di bussare a una porta per rifugiarsi nella casa di un lavorante. Almeno la sua presenza avrebbe messo fine a quel miserabile alterco. Io non mi sono venduta. Allora, mi piacevate. Ma come vi odio adesso, strillò Cinzia, incapace di controllare le parole. Egli si inchinò e girò sui tacchi, svanendo rapidamente giù per la scaletta che scendeva dalle alture. In ogni caso era un sollievo, però le due ragazze si affrettarono per la loro strada come se egli le stesse ancora inseguendo. A un certo momento, quando Molly disse qualcosa a Cinzia, quest'ultima replicò. Molly, se hai pietà di me, se mi vuoi bene, non dire altro adesso. Dovremo far finta che non sia accaduto niente quando saremo a casa. Vieni nella mia stanza quando saliamo per andare a dormire e ti racconterò tutto. So che mi biasimerai terribilmente, ma ti racconterò ogni cosa. Così Molly non proferì verbo fino a che non furono a casa e lì, relativamente tranquille, poiché nessuno aveva notato il loro ritardo, ciascuna salì verso la propria stanza per riposare e calmarsi prima di cambiarsi per la necessaria riunione familiare della cena. Molly si sentì così tremendamente scossa da credere che non sarebbe proprio riuscita a scendere se in gioco ci fossero stati solo i suoi interessi. Sedette al proprio tavolo da toeletta, tenendo la testa fra le mani con le candele spente e la stanza avvolta in una dolce oscurità, tentò di rallentare il battito del proprio cuore e di ricordare tutto ciò che aveva sentito e di pensare a quali conseguenze questo avrebbe avuto sulle vite di coloro che lei amava. Roger. Oh, Roger, lontano, lontano, nel misterioso buio della distanza, con il suo amore. Ah, quello era l'amore a cui Cinzia si riferiva, un sentimento degno di quel nome, per una donna reclamata da un altro. Lei doveva tradire la fiducia di uno dei due. Come poteva essere? Che cosa avrebbe pensato e provato lui se mai fosse venuto a sapere? Era inutile tentare di immaginare il suo dolore e non sarebbe stato un bene. Ciò che Molly vedeva necessario era tentare di liberare Cinzia, se solo avesse potuto darle una mano con il pensiero, con il consiglio, con i fatti, e non illanguidirsi permettendo che la propria fantasia prendesse il volo verso immagini di una sofferenza possibile, probabile. Quando si recò in salotto prima di cena, Molly trovò Cinzia e sua madre da sole. C'erano delle candele nella stanza, ma non erano accese, perché il fuoco nel camino fiammeggiava allegro, quantunque irregolare. Stavano aspettando il ritorno di Mr. Gibson, atteso a minuti. Cinzia sedeva in ombra, così fosse lo tramite il suo sensibile orecchio che Molly poté giudicare il suo stato di compostezza. Mrs. Gibson stava raccontando una delle sue avventure del giorno, che aveva trovato in casa nel corso delle sue visite, chi era fuori e le notizie che aveva sentito. Per l'empatica e sensibile Molly, la voce di Cinzia suonava languida e stanca, però la ragazza rispondeva sempre in modo opportuno ed esprimeva il dovuto interesse al momento giusto. Molly accorse in suo aiuto, intervenendo, è vero, con un certo sforzo, ma Mrs. Gibson non era tipo da notare le lievi sfumature e le differenze di comportamento. Quando Mr. Gibson rientrò, le posizioni delle parti in gioco mutarono. Era Cinzia adesso a sforzarsi di essere vivace, un po' perché era consapevole che lui avrebbe notato la sua depressione, un po' perché dalla culla alla tomba, Cinzia era e sarebbe stata una naturale civetta, che per istinto sfoderava tutte le sue bellezze e le sue grazie per mostrarsi al meglio di fronte a qualunque uomo, giovane o vecchio, che si trovasse in sua presenza. Ascoltò i commenti e i racconti del dottore con tutta la dolce attenzione dei giorni migliori, tanto che Molly, silenziosa e stupita, quasi non riusciva a credere che in quella Cinzia fosse la stessa ragazza che solo 2 ore prima singhiozzava e piangeva fino a farsi spezzare il cuore. È vero che appariva pallida e con gli occhi pesti, ma quello era l'unico segno che la dimostrasse del suo precedente disagio. Eppure la preoccupazione doveva essere ancora viva, pensava Molly. Dopo cena, Mr. Gibson uscì per vedere i suoi pazienti di città e Mrs. Gibson sprofondò nella sua poltrona tenendo spiegata davanti a sé una pagina del Times, dietro la quale si fece un pisolino tranquillo e molto signorile. Cinzia aveva in mano un libro e con l'altra si schermava gli occhi dalla luce. Solo Molly non riusciva né a leggere, né a dormire, né a lavorare. Si era sistemata sul sedile del bovindo. La tenda non era tirata giù, perché non c'era pericolo di essere osservati. Il suo sguardo si perse nella dolce oscurità di fuori, ed ella si ritrovò a cercare di riconoscere i profili delle cose. Il cottage dall'altra parte del giardino, il grande faggio con la panchina che girava intorno al tronco, le arcate in filo di metallo su cui si erano arrampicate le rose dell'estate. Tutto appariva indistinto e vago sullo sfondo di velluto blu dell'aria. Dopo un po' arrivò il tè e poi il solito trambusto della sera. Fu sparecchiata la tavola, Mrs. Gibson si svegliò pronunciando il medesimo commento sul caro papà che aveva fatto alla stessa ora per settimane. Nemmeno Cinzia sembrava diversa dal solito. Eppure, pensò Molly, quale mistero nascosto era celato dietro la sua calma? Alla fine fu l'ora di andare a letto. E della solita breve chiacchierata. Molly e Cinzia salirono in camera senza dirsi una parola. Quando Molly fu nella propria stanza, si era dimenticata se fosse lei a dover andare da Cinzia o il contrario. Si tolse l'abito, si infilò la vestaglia e rimase ad aspettare, sedendosi anche per 1 minuto o 2. Ma Cinzia non arrivò. Così lei andò a bussare alla sua porta, trovandola con sua sorpresa chiusa. Quando entrò nella camera, Cinzia era seduta al tavolo da toeletta, ancora così come era vestita quando era salita dal salotto. La testa era china sulle braccia e la ragazza sembrava quasi essersi scordata dell'appuntamento che aveva dato a Molly. Infatti, sollevò lo sguardo quasi sobbalzando, il suo viso apparve colmo di preoccupazione e di ansia. Nella sua solitudine non si controllava più, ma dava sfogo ai propri pensieri angosciosi. Capitolo 43. La confessione di Cinzia. Hai detto che potevo venire, comincia Molly, e che mi avresti raccontato tutto. Penso tu sappia tutto, disse Cinzia angosciata. Forse non conosci le mie giustificazioni, ma in ogni caso sei a conoscenza del guaio in cui mi trovo. Ci ho riflettuto a lungo, replicò Molly timidamente, un po' dubbiosa. E non posso fare a meno di pensare che se lo dicessi a papà. Prima che potesse continuare, Cinzia si era alzata in piedi. No, disse. Questo non lo farò, a meno che non me ne vada immediatamente da questa casa. E tu sai che non ho altro posto dove andare, senza prima avvertire, intendo. Direi che mio zio mi accoglierebbe, è un parente, e sarebbe obbligato a sostenermi in qualsiasi disgrazia mi trovassi. E forse potrei trovare un posto da Istitutrice? Sarei proprio una bella istitutrice. Ti prego, ti supplico, Cinzia, non partire con questi discorsi folli. Non credo che ti sia comportata così male. Tu dici di no e io ti credo. Quell'uomo orrendo è riuscito a coinvolgerti in un certo qual modo. Ma sono sicura che papà potrebbe sistemare tutto se solo tu lo trattassi da amico e gli raccontassi come stanno le cose. No, Molly, ripete Cinzia. Non posso e finiamola qui. Se vuoi, fallo tu. Però prima permettimi di lasciare questa casa. Dammi solo il tempo necessario. Sai che non riferirei mai niente che tu non desideri io dica, Cinzia, dichiarò Molly profondamente ferita. No, cara, disse Cinzia prendendole la mano. Me lo prometti? Mi fai una sacra promessa? Sarebbe un tale conforto per me raccontarti tutto e tu sai già tanto. Sì, prometto di non dire nulla. Non avresti dovuto dubitare di me, osservò Molly ancora un po' soffrente. Molto bene, mi fido di te, so di poterlo fare. Però pensaci a dirlo a papà e a permettergli di aiutarti, insistette Molly. Mai, asserì Cinzia decisa, ma più calma di prima. Pensi che abbia dimenticato ciò che disse quella volta quando fu qui quel maledetto Mr. Cox? Come fosse vero e per quanto tempo io sono stata in disgrazia, sempre ammesso che ora mi sia riabilitata. Io sono una di quelle persone, come dice talvolta la mamma. Io non posso vivere con gente che non pensa bene di me. Sarà una debolezza, un peccato, insomma, non lo so e non mi interessa. Ma davvero non posso essere felice nella stessa casa con qualcuno che conosce i miei difetti e pensa che siano superiori ai miei meriti. Ora, tu sai che con tuo padre sarebbe così. Ti ho detto spesso che lui, anche tu, Molly, puntate a un modello di condotta più alto di quanto io abbia mai conosciuto. Non posso sopportarlo. Se lui sapesse, sarebbe così arrabbiato con me, non gli passerebbe mai. Mi piaceva così tanto, mi piace così tanto. Bene, non importa, cara, non saprà niente, assicurò Molly, perché Cinzia stava per cadere preda di un altro attacco isterico. O perlomeno, per il momento non ne parleremo più. E tu non dirai mai più nulla? Mai, promettilo, insistette Cinzia prendendole la mano con ardore. Mai, finché non avrò il tuo permesso. Ora vediamo se posso aiutarti. Stenditi sul letto, io siederò accanto a te e parliamo. Ma Cinzia riprese posto sulla sedia presso il tavolo da toeletta. Quando è cominciato tutto? Chiese Molly dopo una lunga pausa di silenzio. Tanto tempo fa, 4 o 5 anni or sono, ero così piccola per essere lasciata tutta sola. Erano le vacanze, la mamma era lontana, in visita, e i Donaldson mi chiesero di andare con loro al festival di Worcester. Non puoi immaginare come tutto sembrasse piacevole, soprattutto a me. Ero stata rinchiusa in quella casa tetra ad Ashcombe, dove la mamma gestiva la sua scuola. Apparteneva a Lord Camnor e Mr. Preston, in qualità di suo intendente, l'aveva fatta ritinteggiare e aveva fatto cambiare la carta da parati. Ma al di là di questo aveva una gran familiarità con noi. Credo che la mamma pensasse... No, non ne sono sicura. E ho già abbastanza da rimproverarle senza riferirti quella che potrebbe essere soltanto una mia fantasia. A quel punto tacque e rimase seduta, immobile, per un minuto o due, rievocando il passato. Molly era colpita dall'espressione preoccupata e invecchiata che aveva preso possesso temporaneo del suo volto bello e luminoso. Da questo cambiamento poteva intuire quanto Cinzia dovesse aver sofferto a causa di questo suo celato tormento. Beh, insomma, eravamo molto intime con lui, che girava spesso per casa e sapeva abbastanza di tutti gli affari della mamma e di tutte le vicende della sua vita. Ti dico questo affinché tu capisca come fosse naturale per me rispondere alle sue domande quando un giorno lui arrivò e mi trovò lì, non in lacrime, perché sai che non mi succede spesso, nonostante questa mia crisi di oggi, ma agitata e furiosa, perché sebbene la mamma avesse scritto che potevo andare con i Donaldson, non aveva mai detto come mi sarei procurata il denaro per il viaggio e ancor meno per qualcosa da mettermi. Gli abiti dell'anno prima mi erano tutti piccoli e in quanto a guanti e stivaletti... In breve, avevo vestiti appena decenti per andare in chiesa. Perché non le scrivesti per dirle tutto ciò? chiese Molly, quasi timorosa di sembrare come se stesse lanciando rimprovero con quella domanda molto naturale. Vorrei aver qui la sua lettera per mostrartela, però devi aver visto alcune lettere della mamma. Non sai che sembra sempre aggirare il nodo cruciale di tutte le cose? In questo caso lei scrisse parecchio su quanto si stava divertendo e sulla gentilezza che stava ricevendo e sul desiderio che fossi con lei e sulla gioia che provava per il fatto che anch'io stessi per ottenere un po' di svago. Ma la sola cosa che sarebbe stata davvero utile per me la omise e si trattava del luogo in cui era diretta. Menzionò che avrebbe lasciato la casa il giorno successivo e che sarebbe rientrata a casa nostra entro una certa data, ma io ricevetti la lettera il sabato e il festival iniziava il martedì dopo. Povera Cinzia, commentò Molly. Eppure se avessi scritto la tua lettera sarebbe stata spedita nel luogo in cui la mamma si trovava. Non voglio essere insensibile, ma detesto il pensiero di come tu sia stata costretta a stringere amicizia con quell'uomo. Sospirò Cinzia. Com'è facile giudicare giustamente subito dopo aver imparato quanto dolore derivi da una valutazione sbagliata. Io ero solo una ragazzina, quasi non più che una bambina, e allora lui era un nostro amico, a eccezione della mamma, il solo amico che io avessi. I Donaldson erano solo delle conoscenze, gentili e di buon carattere. Mi dispiace, disse Molly umilmente, io sono stata così felice con papà. Riesco malapena a comprendere quanto debba essere stato diverso per te. Diverso, direi. La preoccupazione per il denaro mi ha portata all'esaurimento. Non potevamo ammettere di essere povere, perché avrebbe danneggiato la scuola, ma io avrei lesinato, avrei patito la fame. Se solo io e la mamma fossimo andate d'accordo, fossimo state felici come avremmo potuto essere, come te, Mr. Gibson. Non era la povertà. È che lei non sembrava mai volermi con sé. Non appena iniziavano le vacanze, lei partiva per qualche grande casa e direi che fosse molto imbarazzante, data la mia età, avermi in salotto durante le visite degli ospiti. Le ragazze dell'età che io avevo allora sono terribilmente propense a fiutare ragioni e a infilare le loro domande spinose tra gli svolazzi, gli arzigogoli e le pause della conversazione. Non hanno una percezione chiara di quali siano le verità e le falsità della vita cortese. In ogni caso, io ero un grande impiccio per la mamma e ne soffrivo. Anche Mr. Preston sembrava dispiaciuto per me e io gli ero molto riconoscente per le parole gentili e le occhiate di simpatia, briciole di cortesia che sotto il tuo tavolo sarebbero cadute inosservate. Così quel giorno, quando venne a casa per vedere come gli operai stavano procedendo, mi trovò nell'aula scolastica deserta, intenta a osservare il mio cappellino estivo stinto, alcuni vecchi nastri che avevo pulito con la spugna e dei guanti mezzi consunti, una specie di fiera degli stracci sciorinati sopra un bancone. Solo guardare quella sciatteria mi faceva infuriare. Egli disse che era lieto di sapere che sarei andata al festival con i Donaldson. La vecchia Betty, la nostra domestica, lo aveva informato, credo. Ma io ero così in ansia per i soldi e per la mia vanità ero così ferita per colpa del mio vestito trasandato che ero di pessimo umore e dissi che non ci sarei andata. Lui si sedette sul tavolo e un po' alla volta mi fece rivelare tutti i miei problemi. A volte penso che fu molto gentile in quei giorni. In un certo senso non mi resi mai conto se fosse sbagliato, sciocco o altro accettare in quel momento la sua offerta di lavoro. Disse di avere in tasca 20 sterline e che non sapeva davvero che farsene, che non gli sarebbero servite per mesi. Io avrei potuto ripagarle o avrebbe potuto farlo la mamma quando le fosse stato possibile. Lei doveva sapere che avevo bisogno di denaro e molto probabilmente aveva pensato che mi sarei rivolta a lui. 20 sterline non erano troppo, dovevo prenderle tutte e così via. Io sapevo, almeno pensavo di sapere, che non avrei mai speso 20 sterline, ma pensai che avrei potuto restituirgli ciò che non mi serviva e così, beh, è iniziato tutto così. Non sembra così tremendo, vero Molly? No, rispose Molly, esitante. Non voleva assumere il ruolo di una giudice inflessibile. Ma detestava così tanto Mr. Preston. Cinzia proseguì. Bene, Tra gli stivaletti, guanti, un cappellino e una mantella, un vestito di mussola bianca che mi fece fare prima di partire il martedì e un altro di seta che mi fu spedito in seguito a casa dei Donaldson, e il viaggio e tutto il resto, rimase ben poco di quelle 20 sterline, specialmente quando scoprì che dovevo procurarmi un abito da ballo a Worcester, perché tutte avremmo partecipato al ricevimento. Mrs. Donaldson mi regalò il biglietto, ma fece una faccia molto seria all'idea che ci sarei andata con la mussola bianca che avevo già usato per 2 sere a casa sua. Oh, cara, come deve essere piacevole essere ricchi, sai? Continuò Cinzia. Non posso evitare di essere consapevole della mia bellezza e del fatto che la gente mi ammira molto. L'ho capito per la prima volta dai Donaldson. Cominciai a pensare che avevo veramente un bell'aspetto con i miei splendidi vestiti nuovi e notai che anche gli altri lo pensavano così. Ero di certo la bella di casa ed era molto piacevole essere cosciente del mio potere. L'ultimo giorno, o gli ultimi due, di quell'allegra settimana, Mr. Preston si unì al gruppo. L'ultima volta che mi aveva vista, io indossavo un abito sciatto che mi andava piccolo e stavo quasi piangendo nella mia solitudine in reiette senza un soldo. Dai Donaldson ero una reginetta. Come ho detto, le belle piume fanno begli uccelli e tutti mi davano una grande importanza. E a quel ballo, che ebbe luogo la prima sera in cui lui si trovò fra noi, ebbi così tanti compagni da non sapere che farmene. Immagino che in quel momento lui si innamorò veramente di me. Non credo avvenne prima. E allora io iniziai a capire quanto fosse imbarazzante essere in debito con lui. Con lui non potevo darmi le stesse arie che mi davo con gli altri. Fu così tormentoso e imbarazzante. Ma lui mi piaceva e per tutto il tempo lo considerai un amico. L'ultimo giorno stavo camminando con la compagnia in giardino e pensai che gli avrei detto quanto mi fossi divertita e quanto fossi stata felice grazie alle sue 20 sterline. Cominciavo a sentirmi come Cenerentola quando scocca la mezzanotte e che avrei ripagato il mio debito quanto prima, sebbene mi sentissi male al pensiero di rivelare tutto alla mamma e conoscesse abbastanza bene i nostri conti da sapere quanto sarebbe stato difficile raccogliere il denaro. La fine del nostro colloquio arrivò presto, perché quasi terrorizzandomi, egli iniziò a parlarmi d'amore con veemenza e a implorarmi di promettergli che l'avrei sposato. Io ero così impaurita che corsi via per raggiungere gli altri. Ma quella sera ricevetti una sua lettera, nella quale si scusava per avermi spaventata, rinnovava la sua offerta e le sue richieste di una promessa di matrimonio, da realizzarsi in qualsiasi data io volessi menzionare. In effetti, ho una lettera d'amore molto insistente, che conteneva anche un riferimento al mio disgraziato debito, che non era più tale, bensì un anticipo del denaro che da lì in avanti sarebbe stato mio se solo... Puoi immaginare, Molly, meglio di quanto io mi possa ricordare per riferirtelo. E tu cosa hai risposto? Fece Molly senza fiato. Non risposi proprio, finché non giunse un'altra lettera, che sollecitava una mia replica. Oramai la mamma era tornata a casa ed erano ricominciate le quotidiane fatiche e le lamentele per via della povertà. Mary Donaldson mi scrisse spesso, cantando le lodi di Mr. Preston, con un tale entusiasmo che mi parve fosse stata pagata per farlo. Io avevo visto in lui un uomo molto popolare fra i suoi pari. Mi piaceva abbastanza e gli ero grata. Così gli risposi promettendogli che l'avrei sposato quando avessi compiuto 20 anni. Ma fino ad allora doveva restare un segreto. Tentai di dimenticare di aver preso a prestito del denaro da lui, ma in qualche modo, non appena mi sentii vincolata, cominciai a odiarlo. Non potevo sopportare lo zelo dei suoi saluti quando mi trovava da sola. La mamma iniziò a nutrire dei sospetti, credo. Non posso raccontarti tutti i particolari, in effetti all'epoca non li compresi bene e ora non mi ricordo chiaramente come accadde tutto, ma so che Lady Cuxhaven mandò alla mamma del denaro da impiegare per la mia istruzione, come lei la definì, e la mamma sembrava molto irritata e depressa, e noi due non andavamo affatto d'accordo. Così, naturalmente, io non mi arrischiai mai a nominarle quelle famigerate 20 sterline, ma continuai a credere che se avessi sposato Mr. Preston non avrebbero mai dovuto essergli restituite. Malvagia e meschina, direi. Ma oh, Molly, sono stata punita, perché ora aborrisco quell'uomo.